alla tua buona salute. C'era una volta un regno governato da un re pomposo. Non ascoltava mai i suoi consiglieri e prendeva decisioni in base ai propri capricci e desideri. Aveva una figlia di nome Tara. Era intelligente e spiritosa, ma anche molto stanca delle abitudini di suo padre. Furono stabilite le regole più sciocche e la gente del suo regno ne rideva e rimaneva perplessa. Queste carote sono incredibili, non lo sono, Tara? Suppongo. Sono deliziose. Dichiaro che d'ora in poi tutti in questo regno dovranno mangiare solo carote. Cosa? Ma il popolo del regno ne sarà molto infelice. Oh, certo che no, Tara. Il regno mi ama e adorerà anche questa nuova regola. Ma dopo una settimana, il re si stancò di mangiare carote ogni giorno. Torte di carote, stufati di carote, carote, carote ovunque! Sono stufo di loro! Allora forse anche le persone sono stanche della legge? Credo che tu abbia ragione. La cancellerò. Ad ogni modo, i suoi sudditi erano molto scontenti del modo in cui governava. Nel palazzo viveva una cameriera di nome Lucia. In realtà era una fata e anche se sembrava molto giovane, aveva 1000 anni. Lucia aveva un altro amico, Sparkles. Sparkles era un folletto dei fiori. Era una creaturina brillante e felice e viveva nel giardino tra i bellissimi fiori. Insieme si erano presi cura della famiglia reale per molti anni. Buongiorno, Lucia. Che novità hai per me? Il re ha fatto delle leggi? Oh, Sparkles, il nostro re è così sciocco. Non riesco a capire come possa fare regole così orribili e sciocche. L'ultimo re era molto più gentile, no? Lo era, soprattutto perché non gli piacevano affatto le carote. Chi sta ridendo lì? Oh no, è il re. Presto, nasconditi, non deve vederti. Oh, Lucia, eri tu che ridevi? Buongiorno, Altezza. Sì, stavo ridendo perché questo giardino mi rende molto felice. Beh, ho capito. Visto che questo giardino appartiene a me, chiunque lo dovrebbe. I fiori qui sono così belli. Nessun giardino può essere adorabile come il mio. Oh, mio re. In realtà quel fiore è... Sciocco re, ti insegnerò una lezione. Hanno davvero un odore molto... Oh, cielo! Alla tua buona salute! Il re fu molto sorpreso. Alla mia buona salute? Mi suona bene alle orecchie. Tutti dovrebbero desiderare la mia salute quando starnutisco, non è vero? Beh, io... Vedi? Sei d'accordo? Tutti lo faranno, perché io sono il re e tutti amano il re. Con la presente, dichiaro che ogni volta che starnutisco, l'intero regno deve dire subito alla buona salute. Il re se ne andò sentendosi molto orgoglioso di se stesso. Oh, Sparkles, cosa hai fatto? Non ti preoccupare, Lucia. Ho mescolato un po' di fortuna in quella polvere magica. Vediamo cosa succede dopo. I messaggeri furono inviati in tutto il regno e le persone si radunarono attorno a loro. Ascoltate tutti, il re ha emesso una nuova legge, che ogni starnuto di vostra altezza, tutti i suoi sudditi devono dire le parole alla buona salute. Chi non lo farà sarà punito. Cosa c'è di sbagliato nel nostro re? Shh! I soldati potrebbero sentirti. Dobbiamo fare quello che hanno detto. E così la gente del regno obbedì. Ogni volta che il re starnutiva, le campane suonavano e tutti dicevano: Alla tua buona salute! Ora, in questo regno, viveva un povero pastore di nome Aaron. Era un uomo onesto ed era molto intelligente. Non ascoltava e non acconsentiva a tutto ciò che sentiva e si batteva sempre per ciò che era giusto. Un giorno era seduto fuori da casa sua quando alcuni amici vennero a salutarlo. Guarda! Qui si siede l'onesto pastore Aaron. Aaron, lascia che ti aiutiamo. Vieni e unisciti a noi. Ti insegneremo l'arte del furto e non verrai mai catturato. Un bell'orologio può farti bene. Potrei rubare tutti gli orologi d'oro del mondo e non mi sentirei mai ricco. Non devi sentirti ricco. Potresti rubarli e far sentire noi ricchi, vero? Proprio allora le campane del regno iniziarono a suonare. Oh cielo, ecco che sofferre. Ha davvero un naso enorme. Tranquillo, di solo le parole. Alla tua buona salute. Alla tua buona salute. Tuttavia, Aaron rimase lì e non disse nulla. I suoi amici notarono le guardie e lo spinsero. Aaron, cosa stai facendo? Non vedi le guardie? Le vedo, ma non vedo alcun motivo per cui dovrei augurare al re buona salute ogni volta. Se non altro, lo trovo davvero sciocco. Non riesco nemmeno a vederlo starnutire. Shh! Stai zitto, Aaron. Vuoi che le guardie ti sentano? Oh no, è troppo tardi! E proprio mentre Aaron si voltava, una guardia aveva sentito tutto ciò che aveva detto e ora lo stava fissando con rabbia. Come osi parlare male del re? Ripeti le parole che il re ti ha ordinato o verrai portato a palazzo! Fai come vuoi, non temo il re e mi rifiuto di ripetere le parole. Con ciò, la guardia portò Aaron a palazzo. Quando il re venne a conoscenza di ciò che Aaron aveva detto, divenne molto furioso. Come osi desiderare che il tuo re si ammali? Non ti importa del tuo sovrano? Non ho mai desiderato che vi ammaliate, a vostra altezza. Ma in tutta onestà, trovo piuttosto divertente continuare ad augurarvi buona salute quando non riesco nemmeno a vedervi starnutire. Divertente? Mi trovi il sovrano di questo regno divertente? Perché, piccolo? Padre, guarda questi bei fiori che io... Oh! Chi è quest'uomo? Quest'uomo osa disobbedire la mia nuova regola. È la migliore regola che abbia mai fatto. Davvero c'è una persona che osa andare contro la regola di mio padre? Non vuoi augurare a mio padre una buona salute? Niente affatto, Altezza. Gli ho appena detto che in realtà lo ho trovato divertente. Oh! Questo sembra molto interessante. In quel momento, Sparkles apparve improvvisamente sotto il fiore che Tara stava tenendo. Sparse di nuovo la sua polvere magica ed entrò dritta nel naso di Tara. Oh, alla tua buona salute. Cosa? Lo hai detto a lei? E allora perché non lo dici a me? Come osi ridere? Ma non ho riso. Basta! Avrai la tua punizione. Portate via quest'uomo e gettatelo nella tana del leone. Le guardie presero Aaron per le spalle e lo gettarono nella tana. Era profonda e vuota. Non c'era via di fuga e Aaron dovette aspettare lì che il feroce leone fosse lasciato entrare. Ma Aaron era veloce. Tirò fuori alcuni pezzi di carne che aveva nella sua borsa. Prese anche una pozione per dormire e la versò sulla carne. La posò quindi a terra e si nascose dietro un'enorme roccia. Quando il leone fu fatto entrare nella tana, ruggì in modo formidabile e il povero Aaron era molto spaventato. Ma il leone annusò la carne e mangiò rapidamente tutti i pezzi. Sì, sì, buon leone! Mangia tutti quei... Oh no! Il leone era furioso perché qualcuno aveva disturbato la sua tanto attesa cena. Scorse Aaron e ruggì rabbiosamente. Oh no! Per favore non mangiarmi! No, no, no! E con ciò il leone si addormentò profondamente. Dormì pacificamente tutta la notte e Aaron fu al sicuro dai pericoli. Tuttavia rimase sveglio per ogni evenienza. Il mattino seguente le guardie vennero a trovare Aaron e furono molto scioccati nel vederlo vivo e felice mentre il leone dormiva al suo fianco in pace. Lo portarono dal re, che fu ancora più scioccato nel vederlo. Come sei riuscito a sfuggire al leone? E Aaron disse al re ciò che aveva fatto. Molto bene. Ormai devi avere paura per la tua vita. Desideri ora la mia buona salute? Mi dispiace, Vostra Altezza, ma rimango fedele a ciò che ho detto. Allora verrai gettato nella fossa dei cinghiali! Guardie, portate via quest'uomo insolente! Il povero Aaron fu gettato nella fossa e non appena si guardò intorno vide i cinghiali avvicinarsi a lui. Ma anche qui Aaron fu rapido nei suoi pensieri, tirò fuori un flauto e suonò una melodia così vivace che i cinghiali non poterono fare a meno di ballare. Tutta la notte ballarono e ballarono, fino a quando iniziarono a saltellare stanchi. La mattina dopo, quando le guardie andarono nella fossa, trovarono Aaron ancora vivo. Rimasero sbalorditi alla vista dei cinghiali che danzavano le sue melodie. Lo portarono dal re e raccontarono tutto ciò che avevano visto. Quando la principessa venne a sapere dei cinghiali danzanti, cominciò a ridere di gusto. Povero me! Cosa faccio ora? Ottimo! Se le punizioni non ti cambiano, forse lo faranno i regali. Il re portò Aaron con sé in un luogo lontano e gli mostrò una casa costruita con l'oro più puro. Brillava così intensamente che Aaron non riuscì a distogliere lo sguardo da essa. Non è bella? Potrebbe essere tua, se solo mi auguri buona salute. Una casa d'oro? Alla tua buona salute, alla tua buona salute, alla tua buona salute. No, no, non posso farlo. Anche se mi dai tutti i gioielli e l'oro di tutto il mondo, non posso essere corrotto. Il re era perplesso estremamente. Non sapeva cosa fare o dire. Ho perso. Ho esaurito i modi per farti cambiare idea. Ottimo. Fino a quando non troverò un modo per farmi augurare buona salute, rimarrai nel palazzo sotto il mio controllo. Una volta che avrai imparato ad ammirarmi, sicuramente mi canterai quelle belle parole! Aaron era molto divertito da questo re amorevole. Accettò comunque l'offerta del re, non che avesse altra scelta d'altronde. Nel corso dei mesi, Aaron rimase e si godette la vita nel palazzo. Parlò con tutti e presto tutti vennero a conoscenza di quanto fosse saggio e giusto. Il re notò anche i modi di Aaron e appena la gente gli parlò, il re iniziò presto a conoscere il suo regno. Poiché Aaron era un umile pastore, raccontò al re tutti i problemi della gente. Ho imparato molto da te. Le persone del mio regno sembrano molto più felici adesso ed è perché ascolto il tuo consiglio. Vorresti diventare il mio consigliere reale e rimanere felicemente nel palazzo? Accetterei volentieri la tua offerta, mio re. E così il re divenne presto più saggio e col tempo tutti i suoi modi egoistici iniziarono a scomparire. Il regno era diventato molto più felice. Un giorno il re vide Tara e Aaron guardarsi affettuosamente. Si rese conto che nel tempo in cui Aaron era stato lì, i due si erano profondamente innamorati l'una dell'altro. Tara, mia cara, se vuoi stare con Aaron, allora non ho obiezioni. È un uomo saggio e sarai felice se tu lo sposassi. Oh, grazie, padre. Lo amo moltissimo. Il matrimonio si tenne il giorno successivo e tutti se ne rallegrarono. Perfino Sparkles stava ballando al ritmo di musica. Sparkles, scendi prima che qualcuno ti veda. Oh, nessuno mi vedrà, Lucia. Sono troppo impegnati a godersi questa musica, come lo sono io. E mentre danzava, molta della sua polvere di folletto cadde sul re, Tara e Aaron. Oh no, non di nuovo. Si guardarono tutti e furono molto sorpresi. Alla nostra buona salute! Alla nostra buona salute! Alla nostra buona salute! E con ciò risero allegramente. Ops!